Il gastronauta di Davide Paolini. In questo sabato d'inverno, buona giornata dal gastronauta. Bene, per iniziare questa trasmissione magari si sarebbero volute le note di Loredana Bertè e di cantare Mare d'inverno, perché parleremo di mare e parleremo dell'inverno, ma soprattutto di pesce. Pochi magari sono convinti che il miglior momento per mangiare certi pesci, certe specie di pesci, è l'inverno, perché tutti pensano sempre all'estate, perché l'estate ovviamente la gente corre al mare e pensa di mangiare sempre pesce fresco e magari il migliore. In realtà non si rende conto che la domanda cresce proprio nei posti di mare e chissà se tutto il pesce è veramente fresco. Forse è più fresco d'inverno, ma non per la temperatura, anche per tutta una serie di condizioni. Ma andremo così a scoprire questo filone, se è vero che d'inverno si può mangiare un pesce migliore. Allora lo faremo in compagnia di tanti esperti, lo faremo di appunto biologi, lo faremo con alcuni ristoratori, lo faremo con alcuni venditori di pesce. E allora io do il buongiorno a Corrado Piccinetti, biologo marino. Buongiorno Piccinetti. Buongiorno. Senta Piccinetti, ma sono così fuori testa io nel dire che il pesce si mangia un pesce migliore d'inverno, oppure può anche essere vero? No, può anche essere vero ed è vero per alcune specie, in alcuni casi forse sono migliori quelli d'autunno, ma certamente quelli d'estate non sono i migliori. Ecco, d'inverno, diciamo che anche la temperatura dell'acqua che incide molto su certe specie di pesce. Sì, la temperatura dell'acqua incide sul ciclo biologico, sia per la velocità di accrescimento, il metabolismo del pesce e evidentemente anche il tenore in grassi, perché il metabolismo del pesce d'inverno mangia di meno, quindi è un pochino meno grasso. Però viene, diciamo, questo pesce in funzione del ciclo biologico presenta delle caratteristiche particolari, si ha recuperato una parte di quello che aveva speso per la riproduzione, quindi ha un tenore in grassi che è medio alle volte, che è migliore di quando è troppo grasso. Alle volte uno dice, quando mangio le triglie in ottobre, dice quelle dell'Adriatico in particolare sono un po' troppo grasse, se uno non le cucina alla griglia non sono ottimali. Ma cioè, abbiamo alcune specie, ad esempio adesso d'inverno noi possiamo avere le canocchie, che questo crostaceo che vive in una galleria e d'inverno molto spesso le mareggiate la tirano fuori da queste gallerie, quindi se ne prende un quantitativo maggiore, e sono in un periodo prima della riproduzione, per cui hanno già metabolizzato una parte dei loro tessuti, sono più, diciamo, intermedi, non sono né troppo grassi né troppo magri, e il sapore evidentemente ne beneficia. Poi ce n'è un quantitativo maggiore, quindi anche con un prezzo minore sul mercato. Ecco, lei ha fatto un nome di un pesce che io amo molto, un pesce che è tipicamente della costa adriatica, ma le voglio chiedere, nella costa tirrenica c'è la cicala, che è della stessa famiglia delle canocchie, però non è la canocchia. No, è la canocchia. Adesso diciamo, alle volte noi abbiamo dei nomi locali che sono un pochino diversi da una zona all'altra. La cicala di mare, c'è chi è che intende la canocchia ed è la stessa specie, pannocchio, canocchia, che abbiamo in Adriatico, e qualcuno intende come cicala quello che è un crostaceo di colore marrone scuro che sta negli scogli, che è molto poco diffuso, ma però è prelibatissimo, costa più della ragosta. Ma è quello che si chiama in toscano batti-batti? Sì, è una specie di quello lì, solo che questo qui arriva anche a delle dimensioni, anche di mezzo chilo, anche di più, quindi è un po' particolare, direi, come organismo, ma normalmente cicala di mare si intende dappertutto la canocchia. Però c'è anche una cicala di mare che è proibita la pesca, se non erro, c'è una specie molto particolare. Che è quella che le stavo accennando adesso, che non è che sia proibita la pesca viene fatta e si trova in commercio lo stesso, solo che è una specie che merita una considerazione in quanto è abbastanza rara, vive in un ambiente costiero soggetto a un prelievo troppo elevato perché ci sono diverse tecniche di pesca che cercano di acchiapparla, e questo che raggiunge, come dico, dei prezzi anche molto elevati, ma non è ancora, diciamo, non c'è un divieto di pesca. Ecco. Ecco, rimanga con noi perché abbiamo Maurizio Signorini del ristorante Azzurra di Riccione, che sicuramente di canocchie se ne intende. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Davide, buongiorno. Ecco, questo è il periodo d'oro della canocchia. Io direi proprio di qui, proprio non più di 2 giorni fa, venerdì esattamente, 4-5 giorni fa, lunedì. da cesenatico delle canocchie erano 150 grammi l'uno, mai visti in vita mia. Quindi una cosa veramente eccezionale. Quindi una grande stagione per la canocchia. Sì, non solo per la canocchia, anche del pesce dell'Adriatico, con piccoli quantitativi ma di grandissima qualità. Ecco, ma la canocchia qual è il modo migliore per assaggiarla, per gustarla? La canocchia si può fare in mille modi, diciamo. Noi attualmente la stiamo servendo cruda, con del sale di Cervia e abbinata a una mela verde, altrimenti nel periodo autunnale, come parlavamo prima, la facciamo tipo la moeca fritta, che è molto buona, oppure bollita alla griglia in guazzetto, diciamo, si può fare come nel sugo con gli strozzapreti, un piatto tipico del nostro territorio. Ecco, tu hai parlato di due modi, cioè hai parlato dell'autunno e di ora, cioè perché la consistenza della canocchia cambia in questi due periodi? Esatto, nell'autunno, diciamo, il guscio della canocchia rimane quasi come una moeca, quindi con il cambio della corazza, del guscio, e quindi, diciamo, farla fritta, farla in maniera diversa ha un rendimento eccellente, magari penso che sia il periodo migliore per farla fritta. Rimani con noi, Piccinetti. Quindi abbiamo sentito questi due modi di un cuoco di cucinare la canocchia proprio per un fatto biologico. Quindi, oltre alla stagionalità, il pesce ha anche questo fatto appunto di una sua vita biologica che può cambiare anche sulle carni. Certamente, in questo caso tutti i crostacei, per accrescersi, avendo questo esoscheletro, questo scheletro esterno rigido, uno non può aumentare di taglia. Loro però prima dell'aumento della taglia si liberano dello scheletro, poi si gonfiano d'acqua, quindi aumentano le dimensioni e poi ricostruiscono uno scheletro nuovo. In questa fase sono molli, quindi praticamente uno le mangia senza sentirsi la corazza sotto i denti che gli dà fastidio, che la deve levare. E quindi che quando quello che è la classica molecca che abbiamo su nel Veneto, che sono un granchio di laguna che è particolarmente apprezzato in questo periodo, però lo fanno anche gli scampi, lo fanno le aragoste, lo fanno, solo che in genere in questa fase si nascondono perché è una fase delicata, che sono predati da tutti, perché non avendo più la loro struttura difensiva, e quindi in genere è più difficile acchiapparli, però capita che dopo una mareggiata li distrugge la loro tana, e quindi a un certo momento queste sono costrette ad andare fuori e quindi vengono acchiappate, e di conseguenza chi è fortunato che se le trova sul mercato ne approfitta, perché c'è un sapore totalmente diverso. Grazie Piccinetti. Volevo ricordare che a Chioggia appunto ci sono i molecanti. Se uno ha la fortuna di andare al mercato ittico di Chioggia può vedere veramente, diciamo, queste moleche e farsi raccontare un po' anche la storia, perché ci sono appunto degli addetti solo a questo, appunto, che li allevano, poi vanno al mercato, li vendono, e devo dire che l'ultima volta che sono andato ho visto un differenziale di prezzo dal mercato al negozio e al ristorante davvero strepitoso. Forse converrebbe andare a comprare le moeche, chi le ama, sicuramente al mercato. Le moeche non sono, tutti pensano che siano solamente un fatto diciamo veneto e chioggiotto, in realtà si trovano anche, sono molto diffuse negli Stati Uniti e a New York sono una vera ghiottoneria, molto ma molto cara, quindi in tutto il mondo. Ultima battuta a Maurizio Signorini: in questo momento, oltre alle canocchie, qual è l'altro pesce che tu consigli, che diciamo è al massimo della qualità? Ma ci sono i calamaretti, secondo me in questo periodo sono veramente eccellenti, i zanchetti da fare al testo, ma i calamaretti soprattutto, un piatto eccellente del momento da fare di spedini alla brace, penso che sia un piatto imbattibile. Ma anche in guazzetto forse? Anche in guazzetto, oppure due tagliolini appena fatti in casa con due calamaretti. Sempre la pasta fatta in casa, e siamo in Romagna, siamo al ristorante Azzurra di Riccione. Grazie a Maurizio Signorini. Il gastronauta. Siamo sempre al mare, ma d'inverno, a parlare di pesce. Parlare di pesce sembrerebbe anche così un argomento un po' fuori luogo, ma come abbiamo spiegato, sono completamente convinto che il miglior pesce si mangia d'inverno, specialmente nei posti di mare, e credo che si spenda anche forse qualcosa meno, perché la domanda è sicuramente inferiore rispetto a luglio e agosto, dove la gente corre nei posti di mare pensando sempre di mangiare pesce freschissimo. In realtà non lo so, puntini puntini, lascio lascio magari chi ha toccato con mano questo problema di rispondere, ma io continuo in questo viaggio nel mare d'inverno appunto parlando di pesci. Ora faccio ingresso al mercato ittico di Milano, perché sicuramente è notorio che forse il mercato più importante per un giro d'affari, penso per fatturato ma anche per le varie specie che arrivano un po' da tutta Italia. E incontro Renato Malandra, che è veterinario tecnico ASL. Buongiorno Malandra. Buongiorno. Volevo chiederle innanzitutto, ma d'inverno cala di molto, diciamo, l'arrivo del pesce sul mercato di Milano e quindi la domanda, diciamo, di ristoratori, pescivendoli ed altro, oppure è alto, molto alto anche d'inverno? No, dunque la domanda a Milano è sempre alta, perché diciamo che il consumo, soprattutto per la ristorazione, è sempre molto alto, quindi in inverno diciamo che aumenta l'importazione di quelle specie pregiate, perché il pescato nazionale diciamo d'inverno diminuisce sia per il maltempo sia perché alcune specie si pescano di meno. Ecco, lei ha detto appunto arrivano, quindi vuol dire che arrivano dai paesi esteri, cioè arrivano da fuori. Sì, purtroppo la nostra pesca, ma questo non è un discorso stagionale, diciamo un discorso generale, la pesca nazionale è in crisi, c'è un impoverimento diciamo della risorsa, quindi ormai da anni i mercati interni importanti come Milano si rivolgono all'estero, e quindi sull'estero poi bisogna fare la distinzione tra comunitario e extracomunitario. Per extracomunitario arrivano in genere per via aerea dal Nord Africa, tipo Marocco, Senegal, Ghana, oppure addirittura ancora più lontano dall'Oceano Indiano, dalle Maldive, dal Sri Lanka, cioè situazioni veramente... Però si parla sempre di pesce fresco. Ecco, su questo punto, sulla sicurezza, sulla salubrità, il consumatore deve essere così, è garantito di questo pesce che arriva dal Ghana, dal Senegal, dalle Maldive? Le problematiche legate a queste provenienze sono soprattutto legate al tonno per la formazione di stamina, e lì i controlli sono molto concentrati, sia a livello diciamo dei veterinari di frontiera agli aeroporti e durante diciamo la distribuzione. Da queste provenienze naturalmente la freschezza non è perfetta, ecco perché diciamo che ci sono dei tempi un pochino maggiori, lunghi, ecco, rispetto al pescato nazionale o anche quello comunitario. Ecco, la mancata freschezza, la minor freschezza, cosa può portare in un pesce? Ma perde, diciamo, le sue caratteristiche organolettiche. Quindi un pesce meno fresco comincia ad avere degli odori. Ecco, rimanga con noi. Io vado ora a Metta Auriglia di Fano, al ristorante alla Lanterna, da Flavio Cerione. Flavio è uno che al mattino presto va sempre al mercato di Fano, che è un mercato molto interessante. Voglio chiedere a lui se anche a Fano arriva pesce di importazione. Anche a Fano arriva un po' di pesce di importazione, ma diciamo che siamo un pelino più fortunati di Milano, in quanto magari c'è meno richiesta e per cui abbiamo un po' più di pescato locale. Per cui diciamo che chi ha ancora voglia di supportare un pochettino il costo un po' superiore del pesce pescato, ancora riusciamo a trovarlo. Ecco, in questo periodo ci sono i famosi scamponi del vostro mare, diciamo, adriatico, nel marchigiano? Cioè, sì, riusciamo a trovarne, anche se, come diceva il dottore, i nostri mari purtroppo, dovuto alla causa del grande sforzo di pesca degli anni passati e anche al diminuire delle imbarcazioni da pesca, diciamo il pescato è un po' inferiore, ma riusciamo sicuramente a trovare ancora i bei scamponi, quelli che noi chiamiamo del Conero, perché il Conero è messo come zona centrale tra il nord e il sud della pesca di questo buonissimo crostaceo. Senti, ma i vostri scamponi pesano tanto, sono un po' diversi da quelli che si trovano da altre parti? Sì, diciamo che la prima scelta sfiorano e superano spesso i 2 etti, 2 etti e mezzo. Ecco, quanto vanno gli scamponi oggi, cioè, diciamo l'ultimo suo acquisto più o meno? Stamattina abbiamo pagati 58 euro più IVA. Beh, insomma, un bel prezzo per pesce, quindi sì, sicuramente sì. Il pesce è ovvio che è caro. Ecco, oltre gli scamponi, lei al mercato di Fano in questo periodo cos'è solito acquistare, diciamo, un pesce fresco di stagione? Esatto. pregiato, ecco, diciamo che acquistiamo un po' di tutto, il pesce pregiato, quello che troviamo lo prendiamo, però puntiamo molto, come lei sa, su quello che è la stagionalità. Il nostro motto è mangiar bene e spender poco, ed ecco allora che abbiamo quei pesci, come dire, stagionali. In questo periodo si trovano degli ottimi totani, e abbiamo le due misure, il totano più bello e anche il totanino piccolo, che addirittura possiamo rischiare di farlo fritto, tant'è vicino al calamaretto come grossezza. Poi ci sono le busbane, questo pesce bianco, il merluzzo giallo. Come si chiama? Le busbane. Ah. Ed è una carne bianchissima, buonissima. Chiaramente non bisogna essere pigri perché è bello ricco di spine. Però è un pesce stupendo, ci si può fare dal brodo mangiato lesso alla, come chiamiamo noi, alla poveretta, soltanto con un po' di vino, prezzemolo e aglio. E un'altra cosa invece che è pregiata, che in questo periodo diciamo si trova anche a un prezzo non esagerato, sono le mazzancolle qui in Adriatico. Quindi insomma c'è forse meglio che in estate? Sì, sicuramente, sicuramente. Il pesce di questo periodo qui, io non smetterò mai di dirlo, innanzitutto non subisce lo shock termico. Cioè un pesce pescato a 14 gradi, tirato sulla barca a 35, e io dico sempre, è già cotto, non c'è più bisogno di cuocerlo. D'inverno chiaramente questa cosa non succede, e abbiamo la possibilità di dare veramente un pesce che è come se fosse tirato fuori appena dall'acqua. Bene, grazie a Flavio Cerioni, alla lanterna di Metaroviglia di Fano. Torno a Malandra. Volevo chiedere a Malandra, abbiamo parlato di freschezza. Lei ci può insegnare un metodo, diciamo, non sicuramente scientifico, per vedere più o meno la freschezza, uno che si reca in una pescheria? C'è qualche mezzo? Sì, diciamo che il consumatore può, prima di tutto, con la vista vedere i colori, la lucentezza, la brillantezza dei colori, che sono, diciamo, un carattere di freschezza, e poi la rigidità, cioè la durezza, cioè quando il pesce fuori dall'acqua muore interviene il fenomeno del rigor mortis, quindi la muscolatura è molto rigida. Prendendolo per la testa su un fianco rimane praticamente in orizzontale. Ecco, la presenza del rigor mortis è quella che dà la sicurezza. La troviamo spesso nel pesce allevato, perché il pesce allevato, non subendo dei traumi durante la pesca, il rigor mortis può durare anche 3-4 giorni. Ecco, Ogni tanto appaiono degli articoli, se ne parla, anche, si è fatto anche del terrorismo in passato, anche perché ci sono stati dei morti in Giappone. Ma l'anisakis è veramente così frequente? Dunque, l'anisakis colpisce soltanto alcune specie. Il suo pericolo è consumare il pesce crudo. Ormai da più di 10 anni, a livello europeo, chi prepara, sia a livello di ristorazione, di gastronomia, fa delle preparazioni a base di pesce crudo, ha l'obbligo del congelamento. Quindi ristoranti di sashimi, di sushi, eccetera, congelano, anche se per poche ore, 24-48 ore, il pesce che va destinato come crudo. Questo perché uccide, diciamo, sicuramente la larva. Ecco, ma è veramente mortale questa larva? No, dunque, diciamo che il parassita adulto vive nei cetacei, cioè quindi balene, delfini, eccetera. Nell'uomo, che è un mammifero, la larva compie delle migrazioni. Queste migrazioni possono andare a livello intestinale, possono andare anche a livello epatico, quindi creano dei granulomi, delle reazioni a livello di incapsulamento, e naturalmente sono forme non mortali, però bisogna intervenire a livello chirurgico, quindi insomma sono cose serie. Ma viene da ridere, perché quando si va in un ristorante e qualcuno chiede il pesce crudo viene subito detto è fresco, ma in realtà è congelato. Sì, però questo congelamento, diciamo, obbligatorio va inteso come prevenzione a questa forma parassitaria, e quindi il congelamento di poche ore non incide poi sui caratteri organolettici. Diciamo che oggi c'è l'abbattitore. L'abbattitore, esatto. Ecco. Vanno a meno 40, meno 50, congelamento di pezzi di piccole dimensioni e non incidono poi sulla qualità del prodotto. Certo che se un prodotto rimane per dei mesi, chiaro che scade poi nella qualità. Bene, io ringrazio Renato Malandra perché ci ha dato veramente alcuni consigli per la spesa che sono fondamentali e anche per chi si reca al ristorante. Ecco, io vorrei ribadirlo, chi va a mangiare pesce crudo, sushi oppure anche pesce crudo normale, stia molto attento, chieda se c'è stato l'abbattimento oppure il congelamento. È fondamentale per non correre dei rischi, magari dare un'occhiata in cucina per vedere se ci sono questi strumenti, perché sono convinto che molti ristoranti addirittura l'abbattitore non l'abbiano e quindi bisognerebbe stare molto molto molto attenti per non avere poi delle conseguenze piuttosto serie. Il gastronauta. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando. Bene, Paolo dalla regia mi ha fatto questa sorpresa. Ho citato prima Mare d'inverno, che avrei voluto Mare d'inverno per parlare appunto di pesce d'inverno, e quindi mi ha fatto così questa sorpresa, a cui sono grato, perché tra l'altro la cantante è veramente straordinaria, una grandissima artista, la Bertè. Bene, continuiamo. Comunque, appunto, ora abbiamo reintrodotto questo argomento del mare d'inverno e introduciamo anche il pesce, e ora andiamo sul Tirreno, andiamo al ristorante La Pineta di Vibona da Luciano Zazzeri. Buongiorno Luciano. Buongiorno, ciao, come va? Bene. Luciano, io sostengo che il momento migliore per mangiare il pesce è questo, magari tu mi puoi contraddire. No, anzi, da ora fino a aprile-maggio è il miglior momento per il pesce. Ecco. Non sfondi una porta aperta. Beh, tu sei anche un grande pescatore, quindi sai benissimo che magari quali pesci in questo momento sono quelli che sia per consistenza che anche per sapore sono i migliori, soprattutto nel Tirreno, a cominciare magari dalla cicala. La cicala ora è anche un po' troppo forte secondo me in questo momento. Cioè, ieri per esempio avevo una punta di acidità, di acido fenico un po' più alta del solito. Però insomma è sempre un bel profumo, il profumo del mare, dello iodio è eccezionale. Ecco, la cicala qual è il periodo migliore allora sul Tirreno? Secondo me sai, la cicala è buona ad agosto, è bella quando è nera, sai, c'è la testa nera, è bella gonfia, con la luna piena naturalmente. Il momento agosto-settembre secondo me è il miglior momento. Ecco, allora in questo periodo, in questo momento quali pesci diciamo scegliere? Sai, ora anche perché bisogna scegliere anche per forza, perché sai benissimo che la gallinella ora viene, si accosta a fare le uova, sicché la gallinella è una facile preda. Fino ad ora c'era la spigola dorata, e ora invece c'è la gallinella, il San Pietro e i naselli, insomma pesci di fondale che si avvicinano per deporre le uova sotto una certa pressione dell'acqua, perciò è più facile prenderli. Ecco, sicché, ecco, ora c'è la seppia, la prima seppia che viene, che entra, la seppia, la femmina, che è la più grossa, che ecco, sono questi vari tipi di pesce che per problematica la triglia, si sta a volte a settimane senza triglie, naturalmente è un pesce più che dura fino a ottobre-novembre, poi sparisce un po', ecco, poi per riapparire poi all'inizio dell'estate, a modo. Ecco, tu noti nell'arco dell'anno, quindi nell'arco delle stagioni, consistenze diverse negli stessi pesci? Sì, c'è, cioè, l'orata per esempio quando da agosto in poi è grassa, a me piace meno personalmente. Io ho una diatriba con un mio amico pescatore di Viareggio che lui dice che l'orata è migliore da agosto, settembre, ottobre, io invece dico che è più buona quando ha fatto le uova, perché l'orata è sempre in salute in quel momento lì, anche se ha deposto le uova, però c'è una carne più vetrina, una carne più delicata. Invece l'orata di agosto è compatta, è un po' filaccicosa e grassa, quando si cuoce si sente, si vede insomma la grassezza, perché è preparata a fare le uova, perciò è in grande stato di salute e di nutrimento, capito? E poi c'hai l'acqua più calda, c'hai la mangianza diversa in mare, cioè è tutta una cosa diversa, cioè il pesce lo sai che la mangianza determina poi la consistenza della ciccia, cioè quello che mangiano, ora mangiano le cicale, mangiano i granchi, mangiano tante altre cose che sono meno grasse, invece d'estate deve mangiare la seppia, deve mangiare i polpi, deve mangiare anche la sardina, e sicché il mangiare è più grasso, perciò anche loro sono più grasse. Questa è una mia opinione. Certo. Ecco, con questo pescatore siamo sempre a discussioni, perché io ora c'ho le orate che sono belle, morbide, trasparenti, invece d'estate mi danno un po' fastidio, ecco, anche nella cottura. Ecco, rimani con noi, perché ora andiamo in Sardegna, andiamo all'Hotel Gallura di Olbia, andiamo dalla grande Rita. Buongiorno Rita Denza. Buongiorno Davide Paoline, come sta? Bene, io sto bene. Come va il mare? Come va il pesce in questo momento in Sardegna? Così così, perché il mare non è molto buono. Ah, c'è mare mosso, sì, in questo periodo? C'è mare mosso, infatti pescano pochino. Ecco Rita... Poi non si può pescare tutto, quindi... Ecco, quali sono i divieti in questo momento? I divieti sono tutti crostacei, per quanto concerne l'aragosta, la capra marina, che noi chiamiamo, che è la granzeola... L'astice non si può pescare in questo momento, si pesca solamente da marzo in poi. Quindi in Sardegna questo... gamberi e scampo si pescano. E quindi in questo momento gamberi e scampi a gogo in questo momento, Rita? Sì, gamberi e scampi a gogo, perché nella zona di Golfo Aranci e di Siniscola c'è proprio le cosiddette secche, dove vengono pescati sia i gamberi che gli scampi. Ma in questo momento ci sono gli anemoni? In questo momento ci sono gli anemoni, si possono anche pescare. Quindi ci diciamo sono i ricci in questo momento. Ecco, i ricci ci sono in questo momento, quindi sì. Ci sono le secche, cioè il periodo delle sì, secche. Le cosiddette secche di gennaio, esatto, sì. E sono belli pieni, perché dalla parte nostra, a differenza della parte di Alghero che li chiamano Bogamarì, sono un po' più piccoli, però sono un po' più saporiti i nostri. Ecco, qual è il periodo migliore per i ricci di mare da voi in Sardegna? Dalla vostra... da dicembre sino maggio, giugno già non va più bene, però il periodo migliore è questo qua. Quindi quando arriva l'esercito... Da dicembre a... Quando arriva l'esercito dei turisti che vogliono i ricci di mare, il periodo sono peggiore per me. Sono già finiti. Pescano lo stesso, sono proibiti, non si possono pescare, perché adesso hanno messo anche dei divieti. Prima non c'erano, adesso sono un po' più severi ed è anche giusto. Quindi ci sono grandissimi divieti sulla pesca. Bene Rita, sì. Rimanga con noi. Ora andiamo dal direttore di Eurofish Market, Valentina Tepedino, che tra l'altro è anche autrice di diversi libri appunto sul pesce. A lei voglio chiedere, Valentina, ma non ci sono troppi divieti sul pesce in Italia ormai? A mio parere no, cioè nel senso che comunque sono divieti che sono da una parte giusti, dall'altra sono stati un po' esagerati dal fatto che nessuno in sede opportuna, quindi a livello europeo, ha parlato un po' delle nostre particolarità, della nostra pesca, della nostra piccola pesca, la realtà della nostra piccola pesca. E quindi alla fine si è un po' esagerato in questo senso. Dall'altra però si è esagerato che finché non è arrivato un divieto netto, molti hanno fatto un po' tutto quello che volevano. Ecco, questo un po'... Questi divieti ai crostacei di cui parlava Rita Denza, secondo lei sono corretti? Io quello che ho rilevato, come soprattutto da richiedendo come per direttrice di un periodico a volte i dati di pesca, è che in realtà in Italia ho visto una grossa difficoltà a fornire dati. Quindi anche il mio pensiero da questo punto è che in Italia abbiamo pochissimi dati, secondo me concreti, reali, di quella che è la nostra situazione, cioè la situazione del nostro mare. Noi molto spesso ci rifacciamo a quella che è la situazione anche in altri mari, sembra assurdo, paradossale, ma io vedo che un po' c'è questa situazione e questo mi dispiace molto, perché appunto curando anche un periodico scientifico sono abituata sempre a parlare se ci sono dei dati oggettivi, e quindi dire ecco bisogna per forza far così perché è un dato di fatto, c'è questa situazione. Ecco, quando io chiedo dati, soprattutto sulla pesca, per molte specie, questo è dati FAO, dati però vai a vedere nel nostro Mediterraneo in realtà non, cioè non, non, de, derivano da una reale ricerca nel nostro mare. Sicuramente la dottoressa che ha parlato prima forse sta meglio la realtà in Sardegna, se effettivamente c'è stato uno studio in particolare sull'aragosta per cui l'hanno poi vietata, oppure anche lì si rifanno a dati altrui. Ecco. Bene, Luciano Zazzeri, nel Tirreno, diciamo nella sua area, quindi l'area tirrenica, ci sono molti divieti in questo periodo di pesca? Sì, ci sono, per esempio l'aragosta e l'astice, ormai il divieto è sempre stato, non è una novità, anche se andrebbe secondo me un po' controllato, perché arrivano gli astici da fuori, sempre mediterraneo, oppure che sono con le uova, perciò lì si possono acquistare e in Italia no, perché c'è qualche contraddizione. Poi, vabbè, secondo me la pesca andrebbe ripresa tutto in mano e ricominciare da zero, perché noi si sta rovinando un bene che noi abbiamo grandissimo, noi siamo bagnati tre parti dal mare e non si riesce a mangiare il nostro pesce, cioè io sì, io sì, certo, ancora certo. Ce la faccio, questo lo posso dire ad alta voce, però non tutti possono avere il pesce nel nostro mare perché non c'è più, si fa fatica, i pescatori fanno fatica a campare. Perché? Perché ci si dà la zappa sui piedi. Abbiamo fatto un mucchio di puzzo di giugno per questa legge sulle misure delle reti e poi lei va sul mercato ora e trova le triglie di 3 centimetri in vendita. Allora ci si prende in giro. Cioè, secondo me il nostro governo non ha ancora capito niente. Poi non ci sono controlli perché tutte le motovedette sono a terra perché non hanno gasolio per andare per mare e ci sono delle restrizioni che sono, secondo me, negative, come il fermo biologico, non serve a nulla, cioè ormai è provato che il fermo biologico che si fa durante l'estate è uno sconquasso del commercio, cioè noi abbiamo, nel momento del fermo biologico sull'Adriatico, noi si dà il pesce all'Adriatico perché loro vengono a fare la spesa da noi, nel momento che c'è il fermo sul Tirreno, cioè noi si va a fare la spesa da loro, cioè è tutta una confusione. E poi a cosa serve? Che appena si riapre la pesca ritroviamo sul mercato le soglioline, le trigliettine, i nasellini piccoli e poi si fa tanti discorsi. Bene, poi non parliamo di tonno perché il fermo del tonno dovrebbe colpire i paesi europei, in fondo colpisce prevalentemente noi perché in Spagna continuano a pescare a mettere sul mercato tonno a gogo e poi tutto il tonno pinne gialle che arriva dall'estero che poi viene tramutato in tonno rosso con vari sistemi. Sì. Valentina Tepedino, ma il fermo biologico serve a qualcosa? Guarda, questo si deve chiedere appunto a un biologo perché appunto questo dice il parere precedente. Sicuramente quello che appunto su cui concordo è che va sicuramente studiata di più la situazione e quindi bisogna capire un po' meglio, avere un po' più di dati anche per poter ragionare sulla validità o meno del fermo biologico. Posso dire soltanto, proprio perché ho sempre relazioni con persone che si occupano anche di questo, che in realtà dalla comunità europea ci sono arrivate delle taglie minime che per noi sono un po' fasulle, perché ripeto, le nostre specie le raggiungono in altro, cioè raggiungono altre taglie e quindi noi dovevamo avere qualcuno che a livello di comunità europea portava la nostra voce e diceva noi abbiamo questo tipo di situazione, quindi abbiamo queste esigenze un po' forte da fare in modo che si tutelasse un po' di più nella nostra pesca. Ecco, questo non è stato fatto purtroppo, non è stato fatto nel modo giusto. Grazie a Valentina Tepedino, a Luciano Zazzeri e a Rita Denza. Il gastronauta. Non mi voglio sostituire alla Bertè a cantare Mare d'inverno perché sono completamente stonato, però lo voglio ricordare ancora, questo Mare d'inverno, questa bellissima, bellissima canzone di Loredana Bertè, sempre per introdurre il pesce d'inverno. E allora ora andiamo a Porta Palazzo, a Torino, al mercato, allo stand numero 2, al banco del pesce di Beppe Gallina. Buongiorno Beppe. Buongiorno a voi. E Gallina, lei ha scritto un bellissimo libro di cui io ho già parlato su questa trasmissione e appunto sì. È noto per così vendere pesci particolari, cioè pesci non quelli super pregiati, ma sempre pesci di stagione. Allora le voglio chiedere, in questo momento, se io mi accosto al suo banco e le chiedo, mi dà una serie di pesci che sono, diciamo, il meglio di questa stagione, proprio perché anche il pesce ha una sua stagionalità? Ma guardi, come pesce pregiato è rientrato adesso in piena stagione il pesce spada. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto lei prima, che è una mia specialità sul mercato di Torino, quello che ho cercato di fare, le farei sicuramente una proposta di pesce stella, che è un pesce sempre della famiglia del pesce azzurro, che è molto buono sfilettato, e incominciano ad arrivare di nuovo i primi palatti. Ecco, mi piace molto questo pesce stella, perché io sono così per la battaglia contro l'utilizzo a iosa del tonno rosso, e quindi bisogna salvaguardarlo, questo pesce con la palamita o palamita e con questo pesce stella. Mi vuol parlare di questo pesce? Come si può, lei che ha fatto anche nel suo libro un ricettario, questo pesce stella come lo possiamo servire? Ma guardi, il pesce stella è uno dei modi migliori da servire, essendo un pesce azzurro, comunque una carne morbida, va sfilettato, poi può essere solo scottato ai ferri oppure fatto con un po' di pomodoro. Quindi in maniera molto semplice, insomma. Sì, io sono proprio per la cucina semplice, semplice, semplice. Io dico sempre ai miei clienti, quando si compra una materia prima di alta qualità, dimenticarsi tutti gli altri ingredienti nel frigorifero. Senta, ci dà qualche altro pesce, magari la ricetta, così anche suggeriamo ai nostri radioascoltatori di comprare pesce di stagione, ma anche così il modo per cucinarlo. Parlando di un altro pesce, una delle mie ricette, quella scritta sul mio libro, la mia ricetta preferita è rombo allo zafferano impanato nella farina bianca e passato in una noce di burro e foglie di rosmarino. Ecco, arriviamo al rombo. Rombo è il suo momento di pesca, il rombo? Sì, il rombo in questo momento è nel suo momento di pesca, ce ne sono parecchie, il prezzo è abbastanza contenuto. Ecco, voglio parlare con lei anche di prezzo, perché è mia convinzione che il pesce in inverno costi meno che in estate. Non so se è una convinzione così sballata oppure se ha qualche motivo di essere. No, guardi, il pesce come tutte le cose segue una stagionalità, però durante la stagionalità quello che ci dà il mercato è proprio il pescato giornaliero. Ci sono degli sbalzi da un giorno all'altro anche di parecchi euro, questo sì, se si sta su dei pesci pescati. Comunque non è che d'inverno costi di meno rispetto all'estate. Però diciamo che il pesce di stagione, essendoci una grande quantità, probabilmente rispetto ad altri momenti, forse comprarlo in stagione conviene comunque sempre dal punto di vista economico, perché credo che quando un pesce è fuori stagione forse costa un po' di più. Comprare un pesce in stagione serve sicuramente per risparmiare, serve sicuramente per salvaguardare anche i nostri mari. Con quello che sono state introdotte nell'ultimo anno le nuove leggi sulla pesca, sicuramente fra un anno o due avremo un sensibile ribassamento dei prezzi del pescato. Ecco, ho sentito un po', diciamo, dei ristoratori, ma anche degli esperti in giro per i vari mari, il Tirreno, l'Adriatico, la Sardegna, tutti lamentano il discorso del fermo biologico. Lei cosa ne pensa? Io sono favorevole al fermo pesca, quello che dico è, finito il fermo pesca, non sono favorevole a pescare pesci sotto misura, quindi direi anche dopo il fermo pesca cerchiamo di pescare pesci solo di una certa dimensione, come per esempio sono favorevolissimo al fatto che quest'anno noi in Italia abbiamo appoggiato il proibizionismo della pesca dei bianchetti. Quest'anno in Italia noi non pescheremo bianchetti. Quindi sicuramente, perché si rischiava proprio così di raschiare il fondo del barile, così come succede col tonno rosso, credo, quindi siamo sullo stesso livello. Bianchetto, quindi per il pesce azzurro non eravamo a questo livello come il tonno rosso, però era proprio una questione che oramai si erano raggiunti dei prezzi e delle cose che secondo me fermare un anno la pesca può fare un ripopolamento tale che ne vale la pena farlo. Bene, grazie a Beppe Gallina del mercato di Porta Palazzo, stand numero 2, alla prossima, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Da Torino andiamo nell'unico mare che ci mancava, abbiamo fatto un po' il giro d'Italia, andiamo in Sicilia, andiamo alicata da un grande della cucina italiana, ormai un grande della cucina internazionale, perché sicuramente è considerato un grandissimo cuoco. Buongiorno Pino Cuttaia. Ciao Davide, ciao. Della Madia. Ciao a tutti. Pino, tu che sei un... conosci molto bene il mare, conosci bene, molto bene il pesce. In questo periodo in Sardegna cosa consigli ai tuoi ospiti? Quali sono i pesci di stagione? Allora, in questo periodo abbiamo, come tu ben sai, che lavoro molto la seppia, abbiamo proprio il raccolto della seppia. Perché? Perché è ricco di, all'interno alle sue uova, per cui è più grassa, è molto più grassa e viene molto più buona. E poi, come dicevi tu, il pesce assume la sua stagionalità, perché appare, scompare, ricompare in forma magari più piccola, più grande. Ecco, e attualmente oltre alla seppia ci sono molti pesci da far la zuppa. È come se noi pensassimo di fare uno spaghetto alle vongole in questo periodo, no? Il corpo non lo vuole e anche la vongola non è buona. Fortunatamente la stagionalità dà la giustizia proprio ai sapori della massima espressione. Ecco, per un cuoco è importante sfruttare al meglio quindi la stagionalità del pesce, perché il pesce quando è in stagione dà il massimo della consistenza e sicuramente anche dei profumi e dei sapori. Sì, certo, io lo vivo anche per una necessità, il fatto che sia alicata, sono distante ovviamente dalla parte commerciale, no? Per cui ho la fortuna di vivere proprio il raccolto in funzione alla stagionalità. Quindi diciamo le barche dei pescatori ci sono ancora ricate, sì? Certo, ci sono, e poi c'è anche il discorso che non tutti i giorni c'è il pesce, perché quando ovviamente c'è il vento non escono e via dicendo. Allora, e sono tante volte anche in funzione al tempo e al pescato, ecco. Senti, ma una cosa importante, credo da per i nostri radioascoltatori, dai un consiglio quando vanno in pescheria, cioè cosa devono guardare di un pesce soprattutto? Sicuramente devono guardare proprio la parte viscosa del pesce, no? La parte viva, e poi non fare riferimento proprio a quello che può essere la spigola, quello che può essere l'orata, no? Ma anche ci sono dei pesci magari che si sottovalutano perché sono meno conosciuti. L'unico modo è affidarsi proprio al pescivendolo, perché lui è proprio la parte che può comunicare con il cliente. Ecco, c'è nel tuo mare un pesce che è sottovalutato, che tu invece ritieni così importante per la cucina? Ma ad esempio ci sono le cannocchie, le famose cicale, che secondo me, se sono fatto bene, possono anche superare come sapore lo scampo, l'astice. Ecco, e costano molto meno, perché non significa se prende un pesce che costa meno è meno buono. Certo. Io consiglio sempre di scoprire anche quel pesce che magari non si conosce o non si è mai cucinato, certo. Di comprarlo almeno una volta, e poi uno vede proprio la differenza fra l'uno e l'altro. Bene, grazie a Pino Cuttaia della Madia di Licata. Bene, ciao, grazie, ciao. Grazie. Abbiamo finito questo giro tra i mari del mare d'inverno, e ora io ringrazio Paolo in regia, ringrazio Anita Panizza e Viola Bottoni in redazione. Vi do appuntamento domani con la trasmissione Il riposo del guerriero alle 11:15 e ogni giorno con la pillola alle 11:05 e alle 23:05. Buona giornata, anzi buona settimana, come mi ha consigliato un radioascoltatore, mi ha detto di non usare parole inglesi, quindi non dirò più buon weekend ma buona giornata.